La figura del Papa. Lei oggi è il Papa più potente di tutti i tempi. Mai prima d'ora la Chiesa Cattolica ha avuto tanti fedeli, mai un'estensione simile, letteralmente fino ai confini della terra. Sono statistiche che certo hanno la loro importanza. Mostrano quanto la Chiesa sia vasta, quanto ampia sia in realtà questa comunità che abbraccia razze e popoli, continenti, culture e persone di ogni genere. Ma il potere del Papa non è in questi numeri. Perché no? La comunione con il Papa è di tipo diverso e naturalmente anche l'appartenenza alla Chiesa. Tra quel 1.200.000.000 di persone ce ne sono molte che poi in realtà nel loro intimo non ne fanno parte. Già ai suoi tempi Sant'Agostino diceva: molti che sembrano stare dentro sono fuori e molti che sembrano stare fuori sono dentro. In una questione come la fede e l'appartenenza alla Chiesa Cattolica, il dentro e il fuori sono intrecciati misteriosamente. Stalin aveva effettivamente ragione quando diceva che il Papa non ha divisioni e non può intimare o imporre nulla. Non possiede nemmeno una grande impresa nella quale, per così dire, tutti i fedeli della Chiesa sarebbero suoi dipendenti o subalterni. In questo senso, da un lato il Papa è una persona assolutamente impotente, dall'altro ha una grande responsabilità. Egli è, in un certo senso, il capo, il rappresentante e allo stesso tempo il responsabile del fatto che quella fede che tiene uniti gli uomini sia creduta, che rimanga viva e che rimanga integra nella sua identità. Ma unicamente il Signore ha il potere di conservare gli uomini nella fede. Per la Chiesa Cattolica il Papa è il Vicarius Christi, il rappresentante di Cristo in terra. Ma lei veramente può parlare a nome di Gesù? Nell'annuncio della fede e nell'amministrazione dei sacramenti, ogni sacerdote parla e agisce sul mandato di Gesù Cristo, per Gesù Cristo. Cristo ha affidato la sua parola alla Chiesa. Questa parola vive nella Chiesa. E se nel mio intimo accolgo e vivo la fede di questa Chiesa, se parlo e penso a partire da questa fede, allora, quando annuncio Lui, parlo per Lui. Anche se è chiaro che nel dettaglio possono sempre esserci delle insufficienze, delle debolezze. Quel che conta è che io non esponga le mie idee, ma cerchi di pensare, di vivere la fede della Chiesa e di agire sul suo mandato in modo obbediente.